Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie d'attualità mettendo al centro l'animalità. Questa redazione ritiene che gli altri animali debbano essere al centro del dibattito. Nelle notizie di attualità, di cultura, di economia, di medicina, di alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Restate all'ascolto. Nella puntata di oggi, che è la numero 673, parleremo di ambiente con l'esito della recente COP15 che si è tenuta a Montreal. Commenteremo il rapporto nazionale di Legambiente Animali di Città che valuta la situazione italiana su randagismo, canili e sterilizzazioni. Ma parleremo anche di come questo governo si sta orientando sulla questione animale, soprattutto nella gestione dei selvatici. Andremo poi nel grande continente africano, per la precisione in Kenya, dove sono state inventate, pensate, le Olimpiadi Masai, con l'obiettivo di salvare la vita ai leoni. E ultimeremo il nostro viaggio in Svezia, dove in uno zoo sono stati uccisi 4 scimpanzé, la cui unica colpa è stata quella di essere fuggiti dal loro recinto. Non mancherà una ricetta natalizia vegana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, che ha curato anche il montaggio musicale di questa trasmissione. Speriamo di avervi incuriosito. È giusto partire subito con la decisione storica di far diventare, pensate, il 30% delle terre e dei mari area protetta entro l'anno 2030. Sembra un po' una sparata di quelle per tenere buoni tutti, facendo vedere che ci si sta occupando dell'ambiente in modo radicale, però vediamo un po' un approfondimento. Lo prendiamo da Il Manifesto. Dopo 4 anni di negoziati, l'accordo globale sulla biodiversità è stato finalmente approvato a Montreal in una plenaria a fiume a conclusione della COP15, conferenza delle parti della Convenzione ONU sulla biodiversità, che conta 196 stati aderenti. Il precedente piano strategico per la biodiversità, quello 2011-2020, che era stato adottato a Nagoya nel 2010, non è stato rispettato. Pertanto è lecito chiedersi quali garanzie possa dare l'obiettivo così ambizioso che si è dato il nuovo accordo e che è stato presentato come una pietra miliare per la salvaguardia della natura e dei popoli. Oggi sono formalmente protetti solo il 15% delle aree terrestri e l'85% dell'oceano, ma naturalmente, appunto, questa protezione è solo formale, ben poche sono le azioni reali di controllo per garantire una vera condizione di protezione. Altro obiettivo è quello di ripristinare entro il 2030 almeno il 30% dei terreni degradati di terra e acqua. Gli obiettivi sono sfidanti, ma sono anche molto vaghi. Tra gli obiettivi ve ne citiamo qualcuno: dimezzare il rischio di pesticidi e sostanze nocive, lavorare contro l'inquinamento globale della plastica, ridurre l'impronta dell'iperconsumo dei rifiuti, dimezzare lo spreco alimentare, ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, evitando le estinzioni a cascata. Insomma, misure molto radicali, che però ci sembrano veramente astratte, teoriche, lontane. Una battaglia invece molto reale e concreta è stata quella tra il sud e il nord del mondo. È il sud globale che ospita la quota maggiore di biodiversità e il sud ha ricevuto molte richieste di impegno, ma troppo poco aiuto dal nord iperconsumista. I soldi, per esempio, del fondo Global Environment Facility andranno in gran parte a paesi asiatici e latinoamericani, perché la presenza cinese ha forzato l'accordo all'ultimo momento, ignorando le forti obiezioni, per esempio, dei paesi africani. E in molti poi hanno evidenziato come il debito del sud del mondo incoraggi la perdita di biodiversità. Segnaliamo infine i meccanismi aziendalistici che sono stati adottati anche in questo caso, cioè le compensazioni che si sono insinuate nei colloqui delle Nazioni Unite sulla biodiversità, ma come denunciato da più parti si tratta di false soluzioni che possono rivelarsi anche un costoso errore, come sta avvenendo per le azioni climatiche. Tanto per fare un esempio dell'astrattezza degli obiettivi, Greenpeace ritiene fondamentali le tutele basate sui diritti dei nativi, che sono il futuro della conservazione. Però nel complesso Greenpeace ha affermato che il vertice non è riuscito a fornire l'ambizione, gli strumenti e i finanziamenti necessari per fermare l'estinzione di massa e che questo obiettivo 30x30, cioè 30% delle terre e dei mari protetti entro il 2030, sia un po' ridotto all'osso, senza specifiche, che sarebbero essenziali per escludere attività dannose dalle aree protette. La nostra valutazione negativa iniziale trova dunque un fondamento, però ovviamente continuiamo a sperare di sbagliarci, non ci resta altro da fare e speriamo che la società umana si ravveda in fretta capendo i rischi ai quali si sta sottoponendo. Certo non sarà una passeggiata. A livello globale della COP15 andiamo a vedere cosa sta accadendo nel reale e nel quotidiano in varie regioni del mondo. Cominciamo proprio dall'Italia, dove l'11° rapporto nazionale Animali di città di Legambiente, un rapporto che tiene monitorati i servizi offerti dai comuni e dalle regioni per la gestione degli animali padronali e selvatici nei contesti urbani, segnala una situazione deficitaria su tutta la linea. Nonostante la spesa pubblica sia in aumento, le disparità territoriali sono ancora enormi e le sterilizzazioni, uno strumento fondamentale per limitare il numero dei cani prigionieri nei canili e anche il randagismo, dicevamo, le sterilizzazioni sono in estremo ritardo. Nelle città continuano ad aggirarsi quindi milioni di animali fantasma, senza censimento, senza accudimento, senza gestione, rimessi al buon cuore di un volontariato fuori controllo, con conseguenze terribili di tipo sociale e ambientale, ma soprattutto sul benessere di questi animali. Tra le realtà più virtuose ci sono i comuni di Prato, Modena e Verona, ma moltissimi comuni non hanno fornito alcun dato, sfuggendo quindi a qualsiasi tipo di monitoraggio. Meno di 1000 comuni hanno fornito dati e solo 42 aziende sanitarie. Vediamo un po' le voci monitorate dal rapporto. La prima è quella dell'anagrafe. C'è un'urgenza di anagrafe unica nazionale obbligatoria per tutte le specie animali d'affezione o compagnia. Ad oggi l'anagrafe esiste, ma è obbligatoria solo per i cani. Dai dati del 2021 emerge che solo il 39% delle amministrazioni comunali ha dichiarato di aver attivato l'ufficio o un servizio appositamente dedicato a questo settore. Quindi siamo veramente indietro. In molte zone d'Italia non c'è nemmeno il canile sanitario o l'ufficio di igiene urbana veterinaria. Ancora oggi, quindi, poco meno di una su tre delle amministrazioni comunali raggiunge una performance sufficiente, mentre più di 4 su 5 delle aziende sanitarie fa lo stesso. Il resto o non risponde o mostra una performance che va da insufficiente a pessima. Su randagismo e sterilizzazioni, il rapporto sostiene che i cani vaganti, padronali o randagi sono il principale elemento di conflittualità e sofferenza nell'ambito degli animali d'affezione e anche il costo più significativo a carico della collettività. Secondo il sondaggio del Cigno Verde, nei comuni nel 2021, in media, ogni 10 cani catturati, 9 hanno trovato felice soluzione, tra quelli restituiti ai proprietari e quelli dati in adozione o rimessi come cani liberi controllati. Numeri insufficienti per una politica seria di controllo demografico sono quelli della prevenzione del randagismo tramite sterilizzazione, padronale e non padronale, di cani e gatti. In sostanza, meno della metà delle aziende sanitarie dichiara di effettuare azioni al riguardo. Si pensi che solo nel 2021 il numero dei cani dichiarati come entrati nei canili sanitari è di 30.595, quindi su 30.500 solo 4.300 sono stati sterilizzati. Altre voci sono le aree cani, sono i luoghi recintati dove i cittadini possono togliere il guinzaglio al cane e lasciarlo un po' correre, solo il 25% dei comuni ha dichiarato di averne. Poi ci sono i vari regolamenti e controlli deficitari, anche quelli a livello di ordinanze comunali, come l'accesso ai locali pubblici e negli uffici, dove molte persone non riescono a entrare col cane. Ma il punto più dolente forse è quello degli animali selvatici. Sulla gestione dei selvatici sappiamo tutti come vanno a finire le incursioni dei selvatici in città. Su questo punto torneremo in questa trasmissione. Ma possiamo dire che per esperienza anche personale, quei pochi cittadini sensibili che recuperano animali selvatici feriti vivono frustrazioni incredibili. I CRAS, cioè i centri di recupero, sono pochi, sono spesso lontanissimi, alcuni animali non vengono accolti, come per esempio i piccioni. Il trasporto è tutto a carico del povero cittadino sensibile e anche in regioni teoricamente efficienti spesso c'è un rimbalzo di responsabilità. Chiamate i forestali, no i carabinieri, no la ASL e così via. Quando finalmente poi si parla con qualcuno, viene promesso un intervento, che di solito è a carico di una associazione incaricata, però l'intervento tarda ad arrivare, l'animale ferito muore, il cittadino sensibile perde ore, arriva tardi al lavoro, vede l'animale soffrire, spesso morire, a quel punto deve chiamare un altro ente, cioè l'ente che si occupa dei rifiuti speciali. E certo esperienze di questo genere non aiutano a credere nelle istituzioni. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so a parlare di selvatici, quelli che osano entrare nelle nostre città, che sono sempre più blindate e inospitali per ogni animalità, inclusa ovviamente quella umana. C'è una novità tanto fresca quanto inquietante. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento in manovra che prevede gli abbattimenti di fauna selvatica anche per motivi di sicurezza stradale in aree protette e in città. Lo hanno chiamato emendamento Caccia No Limits o anche Ammazza Cinghiali. Come molti ricorderanno, la guerra ai cinghiali e agli altri ungulati ebbe inizio proprio in Toscana con l'assessore Remaschi, in quota PD, nell'anno 2016, quando si stabilì che in 3 anni avrebbero dovuto morire 150.000 esemplari, un obiettivo esorbitante che ha reso invivibile boschi e campagne e che, nonostante tutti questi disagi, non ha raggiunto il risultato, scontentando tutti, specialmente gli agricoltori. Nel nuovo emendamento di Fratelli d'Italia, gli animali, se superano le analisi igienico-sanitarie dopo essere stati uccisi, potranno essere destinati al consumo alimentare. La proposta include l'adozione di un piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, attuabile mediante abbattimento e cattura. anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto, quindi anche in città, in piena città. Una deregolamentazione assoluta, preoccupante. Noi continueremo, come sempre, a seguire la vicenda. Italia, ancora istituzioni. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo parlato del Parlamento europeo e della direttiva Habitat per la protezione dei selvatici, che è a rischio di venire indebolita a causa delle enormi pressioni di varie lobby, tra cui quella naturalmente venatoria. Adesso andiamo a vedere che cosa sta accadendo nella discussione intorno alla manovra per il 2023 e in particolare ad alcune proposte emendative alla legge di bilancio che sarebbero state un beneficio per gli animali, ma che, come era purtroppo prevedibile, non hanno superato l'ammissibilità in commissione bilancio della Camera. Non passa l'istituzione di un garante nazionale dei diritti degli animali, che era un emendamento firmato dal deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Quartini. Non viene poi ammesso l'emendamento di Michela Vittoria Brambilla, un'ex deputata di Forza Italia, adesso nel gruppo misto, che proponeva di introdurre il diritto per il lavoratore di usufruire di un permesso retribuito di 2 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di grave malattia del proprio animale d'affezione convivente. Anche la proposta a firma della deputata Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro, che prevedeva la possibilità per i comuni di vietare le carrozzelle e le slitte a trazione animale, anche questa non supera la scure dell'inammissibilità. Una debacle, quindi, su tutta la linea per gli animali nella manovra del governo, capitanato da Giorgia Meloni. Insomma, il futuro, il progresso e la civiltà sembrano non arrivare mai. Passiamo ai grandi continenti lontani. Andiamo in Africa, in particolare nel nostro volo di rondine sorvoliamo il Kenya, dove ci ha colpito l'esistenza dei giochi olimpici Masai, giunti alla loro 5ª edizione, organizzati in questi giorni nel sud del Kenya per difendere i grandi felini minacciati da estinzione. Di generazione in generazione, i guerrieri Masai dovevano dimostrare la loro virilità uccidendo un leone. Ma pensate quanto cambiano i tempi. Per preservare i felini, la cui popolazione in Kenya è passata da circa 30.000 degli anni 70 a poco più dei 2.000 di oggi, i leader della comunità Masai e la Big Life Foundation, un'organizzazione ambientalista, hanno istituito nel 2012 i Masai Olympic Games, il cui obiettivo è proprio quello di sostituire la caccia ai leoni con uno sport innocuo. Quindi, al ritmo di canti tradizionali e vestiti con i loro costumi coloratissimi, decine di atleti si preparano per i vari eventi. La competizione, indetta ogni 2 anni, si svolge nella riserva di caccia di Kimana, a circa 200 km a sud della capitale del Kenya, vicino al confine con la Tanzania. La riserva si trova vicino al Parco Nazionale di Amboseli, sovrastata dalle cime innevate del Kilimanjaro, il punto più alto dell'Africa. Le Olimpiadi Masai sono un modo per preservare le nostre terre, ha detto Joseph Lecatu, 30 anni, che gareggia dal 2012. Io ora sto inseguendo medaglie e non leoni, dice il giovane, che ha già vinto al lancio del giavellotto. Impariamo molto sugli animali e questa competizione riunisce diverse comunità. Sono rimasti solo 23.000 leoni nel continente africano e il numero sta diminuendo. Con questo evento si crea così un modello per la conservazione della biodiversità in Africa. Insomma, un bel cambiamento. Questi ragazzi, questi Masai, prima andavano a caccia di leoni. Adesso invece fanno sport proprio per preservare i leoni, perché hanno capito l'importanza dei leoni, non solo per una questione di ricchezza biologica, ma anche per una questione turistica, perché in fondo il Kenya è un paese che attira moltissimi turisti proprio per la ricchezza della sua fauna. Stiamo facendo questa competizione per la conservazione. Io ho ucciso due leoni quando ero giovane. Uno di loro perché aveva ucciso una delle mie mucche, spiega un pastore di 66 anni. Ma oggi è importante proteggere i leoni, perché sono sempre meno numerosi. E poi i giovani hanno un lavoro grazie agli animali nel turismo, quindi non c'è più motivo di ucciderli. Tra le varie minacce dei leoni non c'è solo la caccia sportiva, ma c'è anche il bracconaggio e poi la siccità che colpisce il Kenya e impoverisce la società umana, quella animale, ma anche il mondo vegetale. Andiamo in Svezia, dove ha suscitato sconcerto e anche polemiche l'abbattimento di 4 scimpanzé. È accaduto in uno zoo. 7 scimpanzé sono fuggiti dal loro recinto. I dipendenti hanno aperto il fuoco, ne hanno uccisi 4, riportando gli altri in gabbia. L'intera vicenda, definita incidente, ha fatto insorgere il web, i cittadini e alcuni ricercatori. Per contenere la situazione hanno sparato a morte ad alcuni scimpanzé che la settimana scorsa avevano tentato la fuga dalla struttura zoologica che li imprigionava. È successo al Furuvik Sparten, uno zoo nel comune di Gävle in Svezia, quando 7 primati sono scappati dal loro recinto. A detta dei dipendenti dello zoo, gli scimpanzé in libertà avrebbero rappresentato un pericolo per la cittadinanza, non potendoli sedare, in quanto questo avrebbe significato avvicinarsi notevolmente agli animali e attendere almeno 10 minuti per l'effetto dell'anestesia, non restava che ammazzarli. L'uccisione è sembrata ancora una volta l'unica soluzione possibile, la più efficace e immediata, quella con cui si risolve tutto a monte. 3 degli scimpanzé evasi dalla loro prigione sono stati ricondotti in gabbia, ma per i restanti 4 non c'è stato nulla da fare, sono stati uccisi. Tantissimi hanno espresso la loro rabbia per come questa vicenda è giunta al termine. Anche gli zoologi dell'Università di Lund hanno fatto sapere che a seguito della sparatoria non condurranno altre osservazioni sul campo fino a quando la vicenda non verrà chiarita dalle autorità competenti. Io li conoscevo personalmente, ha raccontato alla BBC Mattias Osvat, uno di questi ricercatori. Ho abbracciato Manda, ho baciato Linda, ho fatto tiri alla fune con Santino. Se li avessi incontrati al parco mi sarei agitato, ma non avrei temuto per la mia vita. Questa è una tragedia. Attualmente la polizia starebbe conducendo delle indagini. Quanto accaduto violerebbe infatti le leggi svedesi sul benessere degli animali. Lo zoo, intanto, ha espresso il suo dispiacere per il tragico incidente. Proviamo tutti un'enorme tristezza per quello che è successo e piangiamo i nostri amati scimpanzé, Linda, Thorsten, Santino e Manda. Ora continueremo a fare tutto il possibile per prenderci cura dei nostri animali nel parco. Indagheremo a fondo su questo tragico evento. Siamo molto ansiosi di andare a fondo di come ciò sia potuto accadere e l'indagine potrebbe mostrare dove abbiamo sbagliato o se avremmo potuto agire diversamente, ha scritto il Furuvik Sparten sul suo profilo Facebook. Ma la credibilità di queste strutture è al minimo storico. Nessuno ormai può più credere alla favoletta che gli zoo siano dei luoghi rispettosi degli animali e che abbiano a cuore le sorti di questi. La presenza degli animali significa semplicemente entrate economiche, ed è quella l'unica ragione per cui esistono. Se poi gli animali non servono più o sono in esubero, come vergognosamente è successo, soprattutto in alcuni zoo scandinavi, gli stessi animali pubblicizzati ovunque sui social verranno poi uccisi senza pietà. E questo vale anche in situazioni di emergenza, dove l'emergenza si risolve sempre a colpi di fucile. I quattro scimpanzé cercavano la loro libertà, l'hanno ottenuta solo morendo. Time to get down, I said, Christmas, your Santa's coming to town, I said, Christmas, yeah, Christmas cheers all around, there's no need to be unhappy, presents, lined up under the tree, I said, presents, some for you, some for me, I said, presents, wonder what they could be. Dopo tante notizie piuttosto truci, chiudiamo in bellezza con un po' di cucina. Questa settimana, visto che andremo in onda in prossimità del Natale, abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E anche questo 2022 volge al desio. E vi sento già pigolare per una ricettina natalizia, ma quest'anno mi dispiace, vado in vacanza e vi lascio tutti a bocca asciutta. E c'ho il ruzzo fa un po' il bischero, ora vi racconto la ricetta di un dolce senese che non può mancare mai sulla tavola di Natale, il panforte. Gli ingredienti per un panforte sono 350 g di mandorle non pelate e tostate, 100 g di scorza di arancio candita, 100 g di scorza di cedro candita, 150 g di farina tipo 0, un cucchiaino di polverino senese, ovvero un mix di spezie in polvere, noce moscata, chiodi di garofano, coriandolo, zenzero, cannella e anice, 30 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, 150 ml di succo di mela, 200 g di zucchero a velo. In una casseruola unite il succo di mela e lo zucchero di canna, fate sobbollire a fuoco lento fino a quando il liquido sarà dimezzato e inizierà a formarsi uno sciroppo. Togliete dal fuoco e lasciate da parte. Tagliate a quadretti piccoli le scorze candite di arancia e cedro e mettetele in una boule. Aggiungete la farina, le mandorle tostate e tutto il misto di spezie in polvere. Mescolate il tutto. Recuperate lo sciroppo e unite l'acqua e 150 g dello zucchero a velo. Rimettete sul fuoco e portate ad ebollizione a fiamma bassa. Togliete dal fuoco e versate direttamente nella boule con gli altri ingredienti. Mescolate con una spatola e successivamente con le mani. Foderate uno stampacennera con un foglio di carta forno. Versate l'impasto del panforte nello stampo e distribuitelo sul fondo pressando con le mani, cercando di distribuirlo in maniera uniforme. Fate cuocere in forno a 180 gradi in modalità statica per 30 minuti. Una volta cotto, toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare. Staccate dal fondo e spolverate su tutta la superficie lo zucchero a velo prima di servire. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi. La voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 674 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.